Buongiorno a tutti e tutte, ci troviamo al presidio di Piazza Santi Apostoli a Roma, presidio convocato per insomma, fare il punto sulla situazione delle battaglie contro le nocività, contro le discariche, contro gli inceneritori a Roma e nel Lazio. Allora, siamo qui in compagnia di un componente del comitato di Magliano Romano perché vogliamo provarci a fare raccontare nei limiti del possibile cosa è successo in questi mesi a Magliano Romano dal punto di vista della mobilitazione della battaglia contro il progetto di discarica fino al piccolo successo ottenuto grazie alla vittoria di un ricorso al TAR. Intanto ti salutiamo e ti lasciamo la parola. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo, un membro dell'Associazione Ecologica Monti Sabatinino Discarica Magliano Romano. E siamo qui quest'oggi perché facciamo parte del coordinamento regionale rifiuti, con tante realtà presenti sul territorio, Albano in primis, ma non soltanto. E abbiamo deciso insomma di prendere parte a questo coordinamento perché sappiamo perfettamente che le problematiche gestite singolarmente diventano un problema di una piccola realtà locale, invece se guardate nella loro globalità, quindi a livello regionale, diventano un elemento importante per poter portare avanti, diciamo, delle istanze, tant'è che la manifestazione di quest'oggi è relativa è anche propositiva, insomma, per una gestione sostenibile dei rifiuti. Per quanto riguarda Magliano Romano, abbiamo recentemente vinto un ricorso al TAR, una cosa importantissima perché un ricorso al TAR relativo alla valutazione di impatto ambientale. Col nostro ricorso abbiamo messo in evidenza alcune criticità presenti nel sito. Innanzitutto la presenza di aree boscate, quindi sottoposte a vincolo anche per quanto riguarda le aree contigue del Parco di Veio, e anche un vincolo legato che scatta nel momento in cui sono presenti appunto dei beni paesaggistici, e quindi un terzo vincolo legato alla presenza del paesaggio naturale di continuità e del paesaggio naturale. Poi abbiamo messo in chiaro che la procedura di valutazione di impatto ambientale eseguita dalla Regione Lazio non ha rispettato la normativa europea per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse, ed anche per quanto concerne gli aspetti legati alla mancata valutazione di incidenza, cioè sui siti Natura 2000, cioè sulla rete dei parchi europei sostanzialmente. Quindi questi sono gli elementi, abbiamo portato a casa un ottimo successo, anche perché per la prima volta il TAR si è espresso in maniera, anche leggendo il testo, in maniera abbastanza assistita, dal momento che ha rilevato che la Regione Lazio ha per 8 volte in precedenza errato le proprie procedure, tant'è che questo per noi è l'ottavo ricorso al TAR che il territorio vince sulle questioni inerenti alla discarica di Magliano Romano. E infatti per la prima volta la società che gestisce la discarica, ma anche la Regione Lazio, è stato richiesto il pagamento delle spese che noi abbiamo sostenuto, per quanto riguarda una piccola parte delle spese che abbiamo sostenuto, ma è abbastanza indicativo della bontà, diciamo, della nostra attività. Senti, se ci puoi dire brevemente qual era il tentativo della Regione, cioè trasformare un sito che prima era una discarica di inerti, se ci puoi spiegare questo passaggio? Il passaggio è abbastanza chiaro, infatti noi questo l'abbiamo rilevato anche in varie situazioni, perché c'è un problema riguardo alla normativa regionale con il nuovo piano dei rifiuti che consente la possibilità di tramutare le discariche di inerti in discariche dei rifiuti speciali e non pericolosi, e quindi a suo tempo speciali. Qual è il problema? Il problema sussiste nel fatto che se una realtà, una società vuole presentare un progetto per quanto riguarda una discarica di rifiuti speciali, deve rispettare alcuni standard, in primis la distanza per esempio dai centri abitati, che deve essere superiore a una certa, oltre ai 1500 metri. Con questo però, con un escamotage legato al piano dei rifiuti, che è subentrato all'interno del piano dei rifiuti a seguito di emendamenti in sede di consiglio regionale, appunto, quindi a valle della VAS, viene concessa la possibilità di non rispettare, diciamo, queste distanze. Quindi la nostra problematica, che noi abbiamo messo in chiaro, in evidenza, è che questo è un problema che non riguarda soltanto Magliano Romano, ma riguarda anche tutte le aree legate presenti nel Lazio, tutte le discariche di inerti. Se dovesse passare questo principio, qualunque discarica di inerti, non dovendo rispettare, quando uno apre la discarica di inerti, le distanze, come ho detto precedentemente, È naturale che poi le realtà imprenditoriali possano prendere questo come elemento per chiedere prima la realizzazione della discarica dei inerti e quindi non scontare le distanze dai centri sensibili, pensiamo agli ospedali, pensiamo alle scuole, pensiamo ai centri abitati, e poi il giorno dopo chiedere la riclassificazione. Questo è un problema enorme, è un problema importante che riguarda non soltanto Magliano Romano, ma potenzialmente anche le discariche di inerti presenti all'interno del raccordo anulare. Ok, grazie per questo chiarimento. E non so se c'hai da aggiungere qualcos'altro rispetto alle iniziative che state portando avanti in questa battaglia. Sì, un altro elemento per noi estremamente importante, abbiamo ricevuto una risposta l'8 settembre, quindi poco più di un mese fa, da parte della commissione PETI, la Commissione Europea, che si occupa appunto delle petizioni, perché noi il 12 gennaio scorso del 2022 abbiamo presentato alla Commissione PETI una petizione per guardare a 360 gradi le problematiche legate alla discarica di Magliano Romano, ma anche per quanto riguarda il piano dei rifiuti, per quell'aspetto a cui facevo riferimento prima, insomma, no? Quell'escamotage di non scontare le distanze. Siamo stati auditi dalla Commissione Petizioni lo scorso 13 luglio e l'8 settembre la Commissione Petizioni ha scritto formalmente al Ministro della Transizione Ecologica chiedendo appunto dei chiarimenti, e tutti gli elementi che noi abbiamo portato sono stati presi come concreti, come reali, come problematiche assolutamente reali, e per questo siamo assolutamente contenti, anche perché non era assolutamente scontato che una cosa del genere potesse accadere, anche perché la nostra petizione sarebbe potuta essere abortita, insomma, se non conteneva, diciamo, elementi concreti. E quindi aspettiamo adesso, dovrebbe esprimersi anche la commissione ENVI, che è quella che si occupa di rifiuti e di salute, per quanto riguarda sempre la nostra petizione, ma in ogni caso la lettera al ministro è stata inviata, adesso aspettiamo una risposta per capire appunto come l'Italia intende risolvere, diciamo, questi problemi che ha messo in chiaro la comunità europea. È una cosa importantissima questa, difatti noi siamo stati, se si può fare una classifica, siamo stati molto più contenti per una risposta venuta dalla commissione petizioni invece che dal TAR. Sono importanti entrambi, però faceva piacere, insomma, noi dell'associazione mettere in chiaro questi due elementi. Ah, ok, allora noi ti ringraziamo per questo intervento e per, insomma, averci parlato di questa battaglia che ormai va avanti da parecchi mesi, da 9 anni, quindi insomma di lunga data, e insomma questi sono i passaggi quelli che stanno risaltando di più di questa storia. Noi insomma speriamo di risentirvi con ancora buone notizie e ci riaggiorneremo presto. Io vi ringrazio di questo spazio che ci avete dato e ringrazio soprattutto che tenete bene in considerazione, diciamo, gli aspetti delle lotte, diciamo, per la tutela della salvaguardia, diciamo, di tutta la Regione Lazio. La manifestazione di quest'oggi è proprio, la vostra presenza alla manifestazione di quest'oggi è proprio un elemento chiarificatore da questo punto di vista, e per questo vi ringraziamo. Buona giornata a tutti.